Al-An'am. Il bestiame. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. La lode appartiene ad Allah, che ha creato i cieli e la terra e ha regolato le tenebre e la luce. Eppure i miscredenti attribuiscono consimili al loro Signore. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. È lui che vi ha creati dalla terra e ha stabilito il termine vostro. Pure un altro termine è fissato presso di lui. Eppure ancora dubitate. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Egli è Allah, nei cieli e sulla terra. Conosce quello che nascondete, quello che palesate e quello che vi meritate. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. E non giunge loro un segno dei segni del Signore che essi non rifiutino. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Chiamano menzogna la verità che giunge loro. Presto ne sapranno di più su ciò di cui si burlavano. Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Hanno considerato quante generazioni abbiamo distrutte prima di loro, che pure avevamo poste sulla terra ben più saldamente? Mandammo loro dal cielo piogge in abbondanza e creammo fiumi che facemmo scorrere ai loro piedi. Poi li distruggemmo a causa dei loro peccati e suscitammo, dopo ciascuna di loro, un'altra generazione.

Chi vi salverebbe dalle tenebre della terra e del mare? Invocatelo umilmente in segreto. Se ci sollevi da ciò, saremo certamente riconoscenti. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Di, Allah vi libererà da ciò e da tutte le angosce. Ciò nonostante li attribuite con simili. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Di, egli vi può mandare un castigo dall'alto o da sotto i vostri piedi o confondervi con le divisioni, facendovi provare la violenza degli uni sugli altri. Guarda come ripresentiamo continuamente i segni nostri affinché comprendano. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. Il tuo popolo taccia di menzogna quello che invece è la verità. Di, io non sono il vostro difensore. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Per ogni messaggio verrà il suo tempo e presto saprete. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Quando li vedi immersi in discussioni sui nostri segni, allontanati finché non cambiano argomento. E se Satana fa sì che qualche volta dimentichi, appena ti sovvieni, non restare oltre in compagnia degli ingiusti. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Non compete ai timorati chieder loro conto, ma solo ammonirli. Chissà che non temano Allah. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Ad ogni profeta assegniamo un nemico, diavoli tra gli uomini e demoni che si suggeriscono a vicenda discorsi fatui e ingannevoli. Se il tuo Signore avesse voluto, non l'avrebbero fatto. Lasciali soli con le loro invenzioni. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. Affinché i cuori di coloro che non credono all'altra vita ne siano suggestionati, se ne compiacciano e commettano quello che devono commettere. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Dovrei forse eleggere altro giudice che Allah, quando è Lui che ha fatto scendere per voi questo libro spiegato esplicitamente? E coloro ai quali abbiamo dato la scrittura ben sanno che è stato rivelato, in tutta verità, da parte del tuo Signore. Non essere dunque tra coloro che dubitano. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. La parola del tuo Signore veritiera è giusta ed esauriente. Nessuno può cambiare le sue parole. Egli ascolta e sa. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Se obbedisce alla maggior parte di quelli che sono sulla terra, ti allontaneranno dal sentiero di Allah. Seguono solo congetture e non fanno che mentire. Inna Rabbi ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. In verità il tuo Signore ben conosce chi si allontana dal suo sentiero e ben conosce i ben guidati. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ.

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Se poi ti tacciano di menzogna, di: il vostro Signore possiede immensa misericordia, ma la sua severità non potrà essere allontanata da un popolo empio. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Presto gli associatori diranno: se Allah avesse voluto, non avremmo associato alcunché, e neppure i nostri avi, né avremmo dichiarato illecito alcunché. Allo stesso modo, i loro antenati smentirono, finché non provarono la nostra severità. Di: potete produrre una qualche scienza? Non seguite altro che congetture e supposizioni. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Di: Allah possiede l'argomento decisivo. Se volesse, vi guiderebbe tutti quanti. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. دي: fate venire i vostri testimoni ad attestare che Allah ha proibito ciò. Se testimoniano, non testimoniare con loro e non seguire le propensioni di coloro che smentiscono i nostri segni, non credono all'altra vita e attribuiscono consimili al loro Signore. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم